cammino per girare, chitando in fronte a Minden, o mi essere alla terra, un bidolmo a forza rama, stura scopta mui si va, tegno feste per dei salo, lascio un mec secondo e mi gisfa, tegno feste per dei salo, lascio un mec secondo e mi gisfa. Next to